prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Lassalo andare, no ver paura, fallo volare alto. Questa è la prima volta di un ragazzo cresciuto senza troppi grilli per la testa tra le montagne del Vicentino, proprio ai piedi delle piccole Dolomiti. Ed è lì che Davide Peron inizia a muoversi, osservare e cercare. La musica è qualcosa che sta dietro, però va avanti per lungo tempo, facendo lavori che apparentemente non hanno molto in comune con la musica. Perché di musica non si può vivere, ripetono i vecchi. Stai coi piedi per terra, sembra dirgli la montagna. Così Davide si mette a lavorare come educatore in una comunità di ragazzi con disabilità. L'arte però se la porta sempre dietro, un po' con la chitarra e un po' con la voce. Intanto, quando è estate, si fa un giro sulle sue piccole Dolomiti di rifugio in rifugio, suonando assieme agli amici. Nasce così, quasi per gioco, Mi rifugio in tour. Ma tutto questo è ormai storia, perché di anni ne sono passati e Peron è cresciuto. Oggi è qui con noi perché anche quest'anno si riparte. Allora Davide, dicci a che punto è questo vagare per monti e cosa farai quest'estate? Si vaga? Si continua ad andare di rifugio in rifugio, per fortuna, è la mia vita, quindi andare in montagna e portare le mie canzoni è quello che di più caro ho. E vedo che tutti i miei amici artisti ospiti sono sempre di più, sempre più anche più importanti, e questo mi onora e credo onori un po' tutto quel essere di montagna da dove arrivo io. E da dove arrivi? Perché molti ascoltatori non lo sanno. Io arrivo da Sant'Orso, che è in provincia di Vicenza, al nord del Vicentino, proprio dove iniziano le piccole Dolomiti, e arrivo da lì. E tu da lì poi hai iniziato questo percorso, cioè cosa fai nello specifico? Raccontalo bene, perché magari alcuni si sono persi, diciamo, qualche puntata. Io scrivo canzoni e poi faccio anche l'educatore in una comunità per disabili mentali. E da quando ho iniziato a scrivere canzoni, io la mia vita è sempre stata in quel posto lì, nei piedi delle piccole Dolomiti, e ho pensato sia naturale per me portarle anche nei monti che mi hanno visto crescere, e le tappe dei monti dove vado sono i rifugi come base, come no? Perché poi in montagna sai com'è il tempo, delle volte è bello, delle volte gira in pioggia, e quindi la base fissa dove andare a cantare sono i rifugi per tutte le persone poi che arrivano, perché sono ogni anno sempre di più. E allora, e da lì ho sempre voluto fin dall'inizio che ci siano degli amici ospiti artisti, siano musicisti, cantautori, pittori, scultori, perché credo che in cima ai monti l'aria è più leggera e ci si avvicina un po' più alla verità, ecco, non so come spiegarla. Ma tu... cioè, diciamo, quando è che è iniziato questo progetto? Com'è che è partito? Ce lo racconti? Cioè, nel senso, a un certo punto tu hai deciso che avresti suonato nei rifugi così un po' per gioco, oppure sei partito già determinato? No, io credo sono partito perché, come quando scrivo le canzoni, le cose mi arrivano così. Un giorno con un mio amico sono andato a fare il sentiero delle 52 gallerie per arrivare al rifugio Papa, e credo sia stata l'11ª, mi sembra, galleria. All'uscita ho detto: guarda Simone, io da quest'estate canto nei rifugi, mi rifugio in tour. E lui ha detto: bellissimo, facciamolo. Era per il primo anno, ho detto ok, parto, io e il mio chitarrista, che a quel tempo era Andrea Ballarin, e ho organizzato 4 concerti in 4 rifugi che mi conoscevano bene, insomma, e da lì però la cosa strana è stata che fin dall'inizio, dal primo concerto, ho visto che le persone mi chiedevano a che ora partivo da casa a piedi, E questa è stata una cosa strana, come no? Ed eravamo, credo, in 10, siamo partiti. Sono arrivato in cima al monte e lì c'erano, credo, una cinquantina, una sessantina di persone che già aspettavano che io suonassi. E queste 50-60 persone poi sono diventate 10 persone in più ogni rifugio. E il primo anno mi ha stupito. Sembrava quasi che si aspettassero come questa cosa qua. E adesso, negli ultimi anni, sono arrivato anche 500-600, su una tappa anche 1000 persone, sono tante. Credo che sia soprattutto per la montagna. Poi che le canzoni piacciono, meglio. Se è una bella musica, meglio. Questo mi onora e mi fa piacere. Però credo sia proprio questo condividere, fare la fatica nello stesso tempo. Non perché c'è tu parti diversità. Da casa e a piedi sì. Fai questo giro per io, il rifugio? Sì, nei monti vicini io parto da casa, nei monti un po' più lontani no, bene. Parto sì. Però faccio sempre la salita con la chitarra alle spalle o comunque le porto sulle jeep, ma comunque tento il più possibile di portarmela via. E, ultimamente, in questi ultimi anni, ho lasciato al pubblico libertà, non do orari, do solo l'orario in cui si inizia a cantare con me. Perché ho visto che le persone hanno voglia di... La montagna è anche solitudine e questo lo rispetto proprio. Nell'ascensione, sì. Diciamo, nel camminare, ognuno si può fare il percorso sì. Da solo, mentre prima lo facevate insieme. All'inizio sì, all'inizio avevo dato come un percorso insieme, poi ho visto che in realtà alcuni volevano, altri no, è meglio che ognuno faccia come vuole, sì. Se uno vuole mi chiama e andiamo, mi scrive. Ma come hai coniugato questo impiego del quale parlavi all'inizio, quindi educatore in questa comunità di ragazzi con disabilità mentale, hai detto, sì. e questo impegno nella musica? Credo che la musica è lo strumento che io uso come educatore e pedagogista. Proprio quest'estate esce un videoclip che hanno fatto i ragazzi. Mamma, se solo sapessi com'è duro. Così, quasi per gioco, Peron lascia che a realizzare il suo video, il suo primo video musicale, siano i suoi alunni, i suoi ragazzi con disabilità psichica, quelli a cui il mondo oggi non riconosce che le briciole e che invece sono una vera risorsa sociale. Basterebbe guardare il video di Davide Peron per capirlo, ma di questo continuiamo a parlare tra poco, dopo la viabilità. La prima volta. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Scegliete il libro. Mettete tra una pagina e l'altra le scene del film e sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buona fortuna di aver fiato. Buona fortuna. Ci vuol coraggio, e certo. Davide Peron è un ragazzo di Vicenza, cresciuto guardando le montagne, chiuso in una comunità che avrebbe potuto spegnere i suoi sogni e invece li ha potenziati. Ha lavorato e lavora come educatore in un centro per ragazzi con disabilità mentale e intanto, la sera, guardando le sue piccole Dolomiti, scrive canzoni. Piccole cronache quotidiane che in fondo riguardano tutti noi e riguardano anche i suoi ragazzi. Anni fa, quasi per gioco, nasce un tour musicale nei rifugi della zona attorno a casa sua. Oggi il gioco di Davide Peron si è trasformato in concerti con più di 1000 persone che a piedi arrivano nei rifugi per ascoltarlo e Davide suona e intanto realizza un CD indipendente e i suoi ragazzi lo aiutano a scrivere e a mettere in piedi il suo primo video musicale. Questa è una storia abbastanza buona e lenta, come certe passeggiate in montagna in cui non importa arrivare per primi, ma arrivarci bene. Porto un vestito come Dio comanda. E chissà poi se Dio comanda così. Poco mi importa quel che ho qui con me. Mi basta questa nave e fortuna al fianco. Buona fortuna. Io quando è uscito il nuovo disco ho fatto vedere il videoclip del singolo e mi hanno detto bello. Gli ho detto, ragazzi, perché non volete farne uno anche voi? Sì, magari, perché sono ragazzi disabili mentali, come dire, la società li mette da una parte, no, non lascia tutto questo spazio. E allora ho costruito questo progetto educativo unendo lo staff di professionisti che li seguono, che li in cura, e lo staff artistico che li ha seguiti proprio per la realizzazione del video. Io, essendo sia educatore sia cantautore, mi sono trovato proprio a essere il fulcro, no, di tutti questi movimenti per aiutare i ragazzi a costruirlo come prodotto loro. E il progetto è durato 6 mesi, con vari gruppi educativi, pedagogici, prima scegliere la canzone, poi scegliere la storia. E sono stati tutti i lavori fatti da loro, le scenografie, i vari strumenti. Cioè, ci sono state delle riunioni in cui hanno deciso e come mai e quale canzone hanno scelto? Hanno scelto Un angolo di luce, perché secondo loro l'unione tra cielo e terra è un albero. E nella canzone dico giro tondo attorno all'albero, no? E questa cosa li ha particolarmente colpiti. E c'è infatti questo totem, no? Questo albero che loro costruiscono all'interno della canzone, gli strumenti fatti da loro, loro sono la troupe, loro hanno costruito la storia. Ho avuto la fortuna di avere il regista Michele Regelin, un art director, Mauro Boscarato che ha curato tutta la scenografia e l'attrice Leonora Fontana che li ha seguiti facendo dei corsi di teatro come muoversi nella scena. E una domenica di maggio si è andati a registrare su un prato del comune di Valdagno dove la comunità è. E in un giorno l'abbiamo registrato, i ragazzi sono arrivati pronti, perfetti, ed è stato un successo, è stata una cosa incredibile. Adesso non vedo l'ora di vederlo. Non l'avete ancora visto? No, tutti assieme? No, lo vediamo perché adesso il regista sta montando proprio le varie scene. Ma farete una visione collettiva? Sì, c'è il comune di Valdagno che in comune proprio farà una presentazione in cui io spiegherò tutto il percorso educativo e il motivo di questo progetto e poi si guarderà tutti insieme con la cittadinanza e il risultato finale. E siamo tutti felici, soprattutto i ragazzi. Tu anche la volta scorsa quando ci siamo sentiti non hai mai avuto l'ambizione di diventare un grande, cioè quello che invece cerchi è in qualche modo la serenità di poterti accompagnare con questa musica, vivere, e in qualche modo forse questo sogno lo stai realizzando adesso. Guarda, io l'ho detto anche alla mia compagna, io credo di essere una persona fortunata perché ho trovato la mia strada. Io sono nato per essere cantautore, questo è come dire è una chiamata che va oltre a me, non so come spiegare, sento di essere strumento, ma in questo essere strumento della musica è come una chiave per aprire altre porte. A me piace pensare che siamo tutti uguali, abbiamo tutti la stessa dignità e mi dispiace vedere queste differenze che però si fanno, i disabili mentali, i tossicodipendenti, tutte le persone che sono in difficoltà, sono un po' messe da una parte in questa società che pretende la perfezione, che poi non esiste, ma è quello che si chiede. E questo è un motivo per cui mi spinge a scrivere delle canzoni, ma anche usare questo strumento che è la musica, per dire a tutti: guardate che siamo tutti uguali, abbiamo tutte le stesse potenzialità, abbiamo tutti gli stessi sentimenti, emozioni, siamo figli di un stesso padre, non so come dirla. E la musica in questo è maestra, perché io non scrivo canzoni, io la musica usa me per farle ascoltare. Ecco, questo sì. Non c'è più il male se altri occhi affronteranno la pallottola dell'assassino. Nasconde le brame, le sfide, gli amori, carezze paterne, bugiardi consigli. La prima volta termina qua. Vi ricordo che le puntate sono riascoltabili in podcast. Cercate la nostra pagina, La prima volta, all'interno del sito di Radio 24. Lì troverete l'indirizzo email per scriverci e la pagina Facebook. Buona domenica a tutti e grazie ancora per l'attenzione che ci dedicate. Un caro saluto da Cristina Carpinelli. In quella croce che non dà voce alla nostra libertà. Le cose cambiano, lasciando lontano parole nere, vestite di bianco. Le cose cambiano, lasciando lontano lusinghe bianche che di nero vestiranno. A volte il credo dello sceriffo viene piegato dalla forza del male, dalla semente caduta per terra. Il nome dell'uomo questi occhi incontreranno. La pallottola dell'assassino nasconde le brame, le sfide, gli amori, carezze paterne, bugiardi consigli, di mostri d'orgoglio a cui baciassero le mani. Non cedere uomo e non perdere il tuo nome, regalandoci la parola dignità, perduta ogni volta in quella croce che non dà voce alla nostra libertà. Non cedere uomo e non perdere il tuo nome, regalandoci la parola dignità, perduta ogni volta in quella croce che non dà voce alla nostra libertà. Thank you.